Attualmente il mercato si sta concentrando su base nazionale. A differenza del 2000, in cui apparivano nuovi operatori e quelli già esistenti tendevano anche a entrare in altri paesi, pensiamo a Telecom che è andato a operare in Austria, in Francia, in Olanda, in Germania, adesso invece si sta tutto riconcentrando perché sono aumentati molto i costi degli investimenti, soprattutto gli investimenti nella rete d'accesso che è fondamentale per operare servizi in banda larga. La conseguenza è che gli operatori storici tendono ad operare solo nel loro paese e gli operatori nuovi entranti, che erano una miriade nel 2000, si sono ridotti e anche loro tendono a concentrarsi in paesi singoli. Quindi abbiamo Fastweb in Italia, Free in Francia, Arcor in Germania, ma operatori come Tiscle e Tele2 che all'inizio operavano in una molteplicità di paesi, adesso o sono scomparsi oppure hanno ridotto grandemente l'area di operatività.